ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. YouTube Social Network. Ed eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube. Abbiamo fatto la prima ora di diretta insieme con un sacco di ospiti, con Francesco Bianconi, con Samuele Bersani, con Elodie, con Luca Argentero, per parlare di nuovi dischi, nuovi film, nuove serie TV. E invece nella seconda ora, come sempre quella di RadioTube Social Network, parliamo dell'attualità della rete e dalla rete, ma anche questa volta parleremo molto di musica, e tra qualche istante saprete il perché. Intanto vi ricordo il numero per i vostri SMS e WhatsApp: 349-238-6666, e anche i miei account social, che sono @MartaCagnola su Twitter e su Instagram. Lo so, intanto qualcuno mi chiede l'amicizia su Facebook, ma io non lo uso, lo uso solo per farmi i fatti degli altri, no, cioè per tenermi in contatto con gli amici che lo usano, ma io di mio non lo uso mai, quindi Twitter e Instagram sono i due social nei quali potete trovarmi. Allora, perché parleremo parecchio di musica in questa seconda ora di RadioTube Social Network, perché il nostro co-conduttore d'eccezione è Davide Ferrario. Bentornato. Eccoci, Davide. Qui, grazie, che bello, infinito. Che bello ogni rivederti. Volta che mi inviti è una gioia. Siamo lontani ma vicini. Esatto, lontani. Distanziati ma vicini. Sì, 2,40 metri. Ci sono 2,40 metri. Non ti ho potuto abbracciare, vabbè, ma sono molto contenta di sentirti. Davide Ferrario, ex cantautore. Non lo torne, non parlategli del cantante, non lo farà più. Produttore. Ma per ovvie ragioni di insuccesso, non è che è una cosa di. Cioè, non era andata proprio benissimo. Ma diciamo, vabbè, ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Produttore di grande successo, chitarrista di enorme successo e ultimamente un po' arrabbiato e un po' abbacchiato, perché la situazione, noi ne parliamo spesso, dei lavoratori dello spettacolo, è una situazione un po'. Decisamente complicata. Un po' complicata. Vabbè, ne parleremo tra poco. Intanto. Cominciamo un po' con i video della settimana. Ti stimolo un po'. Beh, intanto, secondo me, il video della settimana, ovviamente, quello più condiviso sui social, quello più visto sulle home page dei quotidiani online, probabilmente è questo. Nel fine settimana di ottobre chiuderemo tutto alle 22. È il fine settimana di Halloween. Questa immensa idiozia, questa immensa, stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro paese. Ecco, Halloween è un monumento alla imbecillità. Siccome noi dobbiamo fare i conti con la realtà e siccome sento che si stanno già preparando a fare le feste, dalle 22 il fine settimana di ottobre si chiude tutto. E sarà il coprifuoco, non sarà consentita neanche la mobilità. Allora, a parte questo Halloween che ha fatto sì, ridere molto, mamma mia, mi sembra la macchina del tempo, ai noi, siamo tornati ai tempi del lanciafiamme. Qui è. Ma sì, lui è una persona molto spettacolare, devo dire, in questo, no? Cioè, spettacolosa, forse, sì. È il termine più giusto. Per sì, cui. Devo dire che, appunto, ne parlavamo la scorsa settimana. Forse adesso qualcuno è meno entusiasta delle sue uscite, perché è un periodo talmente difficile per la Campania che qualcuno dice forse bisognava parlare meno di lanciafiamme. E bisognava pensare a qualche soluzione. Non solo in Campania, forse. Non solo in Campania, però nazionale. Vabbè. Ovviamente Maurizio Crozza non poteva farsi sfuggire l'occasione di fare un nuovo De Luca. Eccolo qua. La notte del 1° novembre prossimo venturo a chi si veste da scheletro, sì. Io scheletro ce lo faccio diventare. Va bene, chiaro, veramente. Molto. Halloween è la festa più sbagliata e fuori luogo che esiste. Ma senta, seconda però. Solo a quella che hanno fatto gli Juventini dopo il 3-0 a tavolino contro il Napoli. Volete celebrare Halloween? Ma basta con sto Halloween. Ebbene, cosa allora fa? Lo celebro pure io. Che fa? Halloween. Oh, mamma mia, cosa fa? Cos'è? Cosa fa, Presidente? Mamma mia, cos'è? Voglio la patente. Eccolo lì. datemi la patente. Ma cosa ha fatto? Togliettatore? Ma sia serio? Voglio la patente di miglior presidente di regione del mondo. Sì, fa anche attenti Totò. A voi, cittadini che vi assemblate per fare Halloween. Sì, fa anche Totò. Proprio. Ricordatevi di Ronaldo. Sì. Ma Ronaldo cosa? Cosa dice? Io avevo detto che la Juve doveva ringraziare il Napoli per aver evitato di contagiare Ronaldo. Sì. Ci hanno ringraziato. E oggi CR7 è diventato CR19. Vabbè, che dire. Comunque è molto più De Luca, De Luca di Crozza. Questo Crozza, lui è il vero De Luca. Tra l'altro, la scorsa settimana avevamo proprio fatto sentire questa cosa del ringraziateci che non vi abbiamo contagiato, Cristiano Ronaldo. Come quando sui social si dice tweet invecchiato male. Ecco, quella frase non era invecchiata benissimo. Perché? Vabbè. Vabbè, è andata così anche a Cristiano Ronaldo. Poi magari ne parleremo, perché si è sfogato sui social, perché è stato attaccato dal ministro dello sport, insomma, vabbè, ormai abbiamo linea diretta via social tra ministri e sportivi. Un sacco di contagi nello sport, questo ci fa un po' pensare. Allora, io ho fatto una domanda qualche tempo fa, c'era una conferenza stampa a distanza a Bologna, ovviamente sui problemi dello spettacolo, tra poco andremo a approfondire il tema, e c'era Diodato tra gli ospiti, c'era Paolo Fresu, e ho fatto la domanda e qualcuno mi ha detto hai fatto il trappolone, sei stata provocatoria, però a un certo punto io l'ho chiesto, ma perché era così urgente far ripartire il calcio e invece non si è sentita questa urgenza per far ripartire i concerti? Se vuoi, allora, devo risponderti da democristiano o ti devo rispondere davvero quello che penso? No, rispondi da Davide, io sono seduta tanto. Allora, guarda, la mia sensazione è che non ci sia la percezione da parte, che è una cosa di cui abbiamo parlato anche fuori onda poco fa, che non ci sia la percezione da parte del pubblico di quanto importante sia il settore spettacolo. Diciamo spettacolo in generale, per non parlare solo dei musicisti, mentre lo sport è una valvola di sfogo di cui, soprattutto il calcio, di cui probabilmente la gente ha più bisogno. Questo è certo. Una forse banalità. Quindi la normalità passava sicuramente più dallo sport che non... Secondo me sì. Però devo dire che probabilmente non so quanti musicisti, attori si sarebbero contagiati, invece purtroppo nello sport i contagi, ahi noi, si stanno contando in grande quantità. Ma anche perché lo sport significa contatto. Per certo. Cioè, non puoi, mentre la musica non per forza lo è. Allora, il musicista, a meno che tu non dal sia vivo quello degli suda. AC/DC che salta in groppa ecco. Quell'altro, però insomma, diciamo. Il musicista dal vivo suda, c'era una vecchia canzone che diceva che alle donne piace il sudore di chi suona, però ci si può star lontani, insomma. Assolutamente sì, poi i palchi oggi, al giorno d'oggi, sono immensi, per ecco, cui insomma. Appunto. Allora, sportivi contagiati, mi ha fatto molta tenerezza Federica Pellegrini, eccola. Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, ho cominciato ad avere mal di gola, ovviamente non sono più andata in piscina e oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo, quindi sono positiva al Covid. Mi dispiace veramente tanto per tutto, per me che avevo cominciato l'anno bene, che mi stavo allenando bene, che non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale. Invece niente, ci rifermiamo di nuovo. Mi ha fatto molta tenerezza perché gli allenamenti, le aspettative, è dura. Assolutamente sì. Io devo dire che ne parlavamo appunto prima di iniziare la diretta, è un po' come tutti i progetti che si sono fermati. È proprio questo, sì, la sensazione di impotenza di fronte al fatto che non puoi fare delle cose che avevi pianificato e che ti piacerebbe fare, per cui questo credo sia forse il lato peggiore psicologicamente di questo malaugurato affare che stiamo affrontando. Tra l'altro devo dire che io... Non lo so, da 2 o 3 giorni sono più apocalittica di prima. No, io devo dire che non ho questa... No, io già sono... Mi sento molto sereno, devo dire, per quanto riguarda me. Poi... Io ero già per... questi paio di giorni sono un po' più apocalittica. Vabbè, facciamo una cosa. Viabilità e poi saremo ancora insieme perché ti faccio parlare un po' di musica. Tra poco. Radio Tube Social Network. Poi un po' mi spiace entrare su questo pezzo, perché io vorrei farvelo sentire un po'. Il nostro co-conduttore Davide Ferrario. Davide, cos'è? Cosa? Quello che stiamo ascoltando? Allora, questo è un nuovo EP che è uscito oggi. Tu sei stata bravissima, l'hai intercettato. Io sono sul pezzo. L'hai intercettato proprio perfetta. Si chiama End of an Era. Io non so pronunciare le robe in inglese, non so se si dica ira o era. Comunque, l'ho chiamato la fine di un'era, che è un po', voglio dire, per questioni personali, però traslate poi sul globale, mi sembrava un titolo abbastanza adatto. Ed è quello che poi ho cercato di trasmettere in queste rarefatte note di pianoforte che si sentono ancora in sottofondo. Questo senso un po' di abbandono e di fine, no? delle cose, che è nella mia testa l'unica esperienza che l'essere umano può avere con l'infinito, cioè il fatto che qualcosa non torni più. Ok, adesso ci rifletto. No, perché oggi abbiamo avuto solo musicisti che mi hanno... Dobbiamo tornare a avere musicisti. Delle che cose non... un po' più, diciamo, sì, più fruibili, sì, più roba terra, un po' più, sì, roba che mi imponga meno problemi. Davide, come stai lavorando in questo momento? Perché tu hai uno studio, sì. Lavori da solo sostanzialmente, sì. E però... una cosa buona di questo periodo storico è che comunque tu puoi anche avere un editore, una casa discografica, anche dall'altra parte del mondo. Beh, io devo dire questa mia esperienza nell'elettronica, che dura da un paio d'anni, l'ho fatta solo con etichette straniere, con gente che non ho mai incontrato. Ho firmato dei contratti su Facebook con degli allegati inviati su Facebook. Okay. Per cui è tutto assolutamente remoto, in remoto, online, eccetera. Per cui per me non è cambiato nulla dal punto di vista della produzione della musica elettronica. Il grosso che è cambiato è invece tutta la parte live, che riguarda appunto sia il mio lavoro come turnista, come chitarrista, polistrumentista, che dir si voglia, per Max Pezzali in questo periodo e Siria nell'ultimo periodo. Quello è cambiato sostanzialmente, insomma. Allora, per parlare di questo ti faccio sentire un qualcosa che è andato in onda ieri sera durante la puntata di Tale e Quale Show. Infatti appena successa questa cosa ho proprio pensato a te. Ecco qua, Carlo Conti. Ti muovi benissimo, te l'ho detto la settimana scorsa, mi hai detto che vieni dal musical, quindi un abbraccio a tutti i colleghi che non possono lavorare in questo momento. Beh, guarda, teatri, grazie, accomodati pure. Cinema e... grazie. Accomodati pure, brava. Guarda, ho lasciato questa fly case perché a Milano, in Piazza del Duomo, c'è stata questa meravigliosa manifestazione di tantissimi uomini e donne del mondo dello spettacolo che sono fermi, tantissimi lavoratori. Un gesto meraviglioso, un'iniziativa meravigliosa, speriamo che si possa pensare anche a questo settore, il teatro, il cinema, la televisione, tutti quelli che sono fermi, i tanti liberi professionisti, tanti uomini e tante donne che sono fermi anche in questo nostro settore. Questo era Carlo Conti, ieri sera avete sentito anche la voce di Vincenzo Salemme. Intanto fatemi salutare a distanza, ha scritto ora su Twitter Emiliano Morgia, grandissimo light designer, tra l'altro erede della tradizione del leggendario Pepi Morgia, una leggenda assoluta dello spettacolo, che dice grazie per raccontare la situazione dello spettacolo. Allora, facciamo un passo indietro allo scorso sabato. Non ho preso audio perché in realtà è stata una manifestazione da vedersi, certo, da vedersi. Più... però le foto le abbiamo viste non subito perché i mezzi di comunicazione, a parte Radio 24 che l'ha raccontata subito, e lo diciamo. Assolutamente, questo ci teniamo, non per niente è la mia radio preferita, e questo non lo dico per piaggeria, per perché è l'unica, no, invece guarda, è l'unica radio che ascolto. Ah, bene, grazie Davide. Allora, Piazza Duomo, sì. Esattamente una settimana fa, più o meno a quest'ora, cosa avete combinato? Allora, si sono riunite tante figure professionali inerenti al mondo della musica, dello spettacolo, prevalentemente della musica, devo dire, in quell'occasione, per cui tecnici, fonici, ma anche persone che lavorano negli uffici, per cui gente che fa produzione, uffici stampa, tecnici luci, qualche musicista. Devo dire che questa cosa ha avuto poca presa sui musicisti, non so perché, ma credo di intuire perché è nata e come dire, ed è stata veicolata attraverso i social, per cui è stata una sorta di passaparola che, essendo partito da un nucleo di tecnici, ovviamente si è esteso prevalentemente a quell'ambito lì. Ognuno, insomma, c'erano, non so quanti bauli fossero, credo un 200, una roba del genere, bauli in tutto il sagrato, per cui chi era dietro a un baule e anche chi invece è rimasto ai lati con delle aree distanziate, eccetera, eccetera, per raccontare alla gente sostanzialmente che il mondo della musica non se la sta passando per niente bene. Allora, le foto le abbiamo viste sui social, abbiamo visto anche i video, perché poi fortunatamente, appunto, ne ha parlato ieri sera Carlo Conti, fortunatamente poi nei giorni la cosa ha cominciato a essere molto condivisa. Sì. Ci spieghi ancora perché questi bauli? Beh, perché il baule, o fly case, se vogliamo usare il termine più, come dire, più internazionale, è un po' il simbolo di chi lavora nel mondo dello spettacolo, no? Il baule con gli angoli rinforzati di metallo, dentro al quale si trasportano microfoni, chitarre, qualsiasi tipo di fari, casse, tutto quello che poi si usa durante un concerto, ma non solo, anche in realtà nel cinema, anche in qualsiasi ambito che abbia a che fare con l'entertainment, con lo spettacolo. Il fly case è un po' il simbolo di questa cosa, no? È quello che un po' accomuna tutte le professioni che poi sono tantissime, che hanno a che fare poi con la musica. L'hashtag era Bauli in piazza, quindi se lo andate a seguire nei vari social trovate appunto questi... E non Bauli, come qualcuno ha detto, ma perché... No, dai, ti prego. Vabbè, ma era fuori stagione, fosse stato più sotto Natale, in effetti. Perché poi eravamo tutti di rosso, per cui uno dice. Ah, no, quello no. Però i social, come sempre, arma a doppio taglio, ne parliamo in ogni puntata. Vi siete trovati anche dei commenti? Sì, ci sono stati ovviamente dei commenti che poi in realtà hanno messo alla luce una cosa che sappiamo benissimo, e cioè il fatto che appunto qualcuno ha scritto trovatevi un lavoro, qualcuno ha scritto trovatevi un lavoro vero, come se non fosse un lavoro vero, no? Qualcuno ha scritto lo fate solo per mettervi in mostra, in realtà siete già benestanti, perché le ma persone... Ma cosa mi nasconda? C'è qualcosa che mi nascondi, Davide, quindi in realtà... Io sì, adesso marca ho ordinato miseria, il quarto yacht proprio giusto ieri. No, la verità è che la percezione del pubblico spesso è falsata, nel senso che si pensa innanzitutto che appunto un concerto sia fatto, adesso parlo dei concerti che è il mio ambito, non mi permetto di parlare di altri ambiti che non conosco, però che un concerto sia fatto dal cantante e dai musicisti, cosa che non è vera. Ecco, ti faccio una parentesi, prima che scoppiasse il lockdown, una delle ultime cose sociali in cui ho incontrato delle persone era stata una festa per presentare il doppio concerto di Max Pezzali a San Siro. Certo. E tu avresti... l'ultima volta che ci siamo visti, credo, io e te, sì, perché poi non ci siamo più visti. È vero. Presentazione di un evento che sarebbe stata intanto la consacrazione della carriera di Max. Anche perché è il primo San Siro che fa, per cui che non è una cosa da poco. No, per nulla. Anche perché poi San Siro si può fare anche finto prendendone una fettina, invece quello era... No, questo era un sold out, la prima data, e credo fosse quasi sold out anche la seconda, se non già sold out. Peraltro volevo fare un'ulteriore parentesi e dire che è uscito il singolo. Certo, infatti no, ecco cosa mi dimenticavo di dire, no? Infatti aspetto di sentire ieri, Max a presto, perché qualcosa sono di nuovo, e credo il disco sia in pre-order da oggi, per cui ecco, dai. Anche lì c'è il mio zampino. È certo. In quanti stavate lavorando a questo concerto? Ma sai, non siamo nemmeno arrivati a fare della vera e propria produzione, perché in realtà noi avremmo dovuto andare a fare le prove a giugno. Ovviamente essendo il concerto doveva essere a luglio, il concerto era a luglio, il 10 e l'11 luglio, ed è stato posticipato al 10 e 11 luglio del 2021. Mi ricordo la data perché ho ancora il cappellino sulla nella libreria, il cappellino di Max a San Siro. Quindi è una cosa che davvero, lo so che continuo a ripeterlo, ne parlo spesso nella trasmissione, però tutte le persone che fanno un lavoro, che si svegliano la mattina e vanno a lavorare, quindi magari non lavora in una fabbrica ma montano un palco, ma è lo stesso tipo di sono persone che lavorano e che sono del tutto ferme, che sono lavoratori intermittenti, per cui non gente che ha contratti a tempo indeterminato, ce lo sogniamo, io non l'ho mai avuto in vita mia e mai ce l'avrò, perché di fatto è come, cioè, sono un libero professionista a chiamata sostanzialmente, per cui è tutta gente che non ha nessuna risorsa per, cioè o cambi lavoro, vai a fare un'altra cosa, come diversi a trovarlo hanno fatto, creando poi un problema futuro, perché a un certo punto succederà che quando si torneranno a fare i concerti, certe risorse, soprattutto i tecnici specializzati, sarà difficile reperirli perché saranno andati a fare altri lavori. Per cui, insomma, c'è una situazione molto complessa che però non viene neanche gestita, non viene neanche considerata. Cioè, la mia sensazione è proprio questa. Via WhatsApp: non chiediamo sussidi, non vogliamo gravare sulle casse dello Stato, chiediamo solo la possibilità di aiutare il governo per trovare delle giusto soluzioni intelligenti per poter fare spettacolo rispettando la sicurezza giusto degli spettatori del paese. Giusto, giusto, è esattamente questo. Allora, Davide, facciamo una breve pausa, poi ci ritroviamo ancora. È un argomento difficile da spiegare, perché davvero spesso la percezione è quella del musicista straricco che tanto certo ha passato il lockdown nella sua villa con due piscine. No, io con abito una in piscina, un appartamento di 48 metri quadri, volevo dirlo, così almeno ridimensioniamo subito. Ecco, il musicista, la vita del musicista, dunque è un settore che va davvero protetto e tutelato, perché quando tutto questo marasma sarà finito, e cerco di non essere apocalittica, finirà e finirà presto. Ma questo non essere apocalittici credo sia una sicurezza. Ecco, per ecco cui non... dai, diciamo così, avremo ancora bisogno di loro, quindi pensiamoci bene. Pausa e poi saremo ancora insieme tra poco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme per l'ultima mezz'ora del nostro sabato di Radio 24 in diretta con Radio Tube, prima Social Village e poi Social Network, e con il nostro co-conduttore d'eccezione per questo sabato, Davide Ferrario. Eccoci, grazie qui. Davide, abbiamo parlato molto. Per me è un onore, sempre un onore essere qui. Addirittura. Poi io rimango affascinato dalla naturalezza con cui tu conduci. Io che ho sempre un po' il nodino quando entro. Vabbè, qui ma ci sento è un po' mio di nodino, tu dici, è il mio lavoro. No, certo, pensa giusto che io ho degli amici che impazziscono perché adesso con la mascherina meno, ma tipo io mi trucco mentre sono in onda, ma perché no? Ma il certo, mio, ma perché certo ognuno, cioè non è che cioè quello che guida il taxi, quello che e io sì. guido il micro, io guido il tastino rosso, tutto certo qua. Prima di parlare di un altro argomento, mi piacerebbe ricordare un personaggio che è scomparso in questi giorni, un personaggio che io amavo moltissimo, e vorrei farlo con le parole di Antonella Clerici. Vi avevo detto che oggi mi sentivo strana. Ho iniziato la trasmissione e avevo un malessere, non sapevo che cosa fosse. Adesso durante la pubblicità mi hanno detto che è mancato, è morto, se n'è andato il mio amico di sempre Gianfranco De Laurentiis. Gianfranco De Laurentiis per me è stato la prima persona che ho conosciuto quando sono arrivata a Roma ragazzina a fare dribbling per i mondiali di calcio nel 1990. Mi ha adottato nella sua famiglia, è stato per me un maestro, un amico e un papà, davvero. Cosa succede adesso? Gianfranco De Laurentiis, che era proprio un signore, vabbè, io me lo ricordo, era il calcio da bambina, quello per cui bisognava aspettare la domenica sera per vedere i gol. Mio nonno ascoltava chiuso in cucina da solo tutto il calcio minuto per minuto alla radio, perché era una cosa, lui stava in cucina e se lo ascoltava da solo, e poi a un certo punto veniva in sala a vedere sull'unico televisore di casa, perché si usava così, certo, i gol. Magari appunto Gol Flash, che era quello di Gianfranco De Laurentiis. Sai cosa ti dico, Davide, a proposito di musica? Che io poi quel giorno lì sui social c'è stata la commozione, giustamente, perché poi era un uomo di un'eleganza che forse adesso, non dico che non abbiano i giornalisti di oggi, perché è proprio cambiato lo stile. È cambiato lo stile, totalmente, sono d'accordo. Cioè è proprio cambiato il modo di condurre. Sì, sì, sì. Poi io ho condiviso appunto sui social dei vecchi video che ho trovato su YouTube. Effettivamente in 10 minuti parlavano dei gol Serie A, Serie B e Serie C, e piano piano li commentava lui da solo con grande flemma. Adesso, certo, figurati, ci vorrebbero i fuochi d'artificio in ogni secondo, certo. No, e poi sai cosa? Mi sono messa poi a riascoltare le vecchie sigle. Ma quanto erano belle le sigle, bellissime. Tra l'altro avevamo parlato con Oscar Prudente della sigla di Stadium, che era quella col grande dilemma su cosa dice quella canzone, e c'è ancora sul sito di Radio 24 quella puntata di Come nasce una canzone con Oscar Prudente, e l'unica vera spiegazione di cosa dice quella canzone, il goleador, dice un'altra cosa. Non vi posso dire, ve lo dice Oscar Prudente se andate a recuperare quella puntata di Come nasce una canzone. Mi sono fatta un po' di autopromozione. Incentiviamo i podcast, ma io sono d'accordo. Ma infatti, anzi, mi sono dimenticata di dire una cosa a Alessandro Schirano, glielo dico in onda. Ale, guarda che dobbiamo preparare nuove puntate di Ancora una poi smetto, perché dobbiamo fare una nuova stagione. Ok, no, io... Giusto. E non gliel'ho detto prima, così glielo dico in onda. Allora, mondo nuovo, streaming, podcast, WhatsApp. A un certo punto sembrava che l'email fosse morta. Cioè... Sì, questo è una cosa molto grave, secondo me, perché soprattutto nell'ambito, adesso io ti parlo del mio lavoro, nell'ambito del mio lavoro adesso c'è questo mal costume di inviare gli audio, e non parlo delle note vocali, ma di inviare gli audio proprio, senti il mio brano e te lo mando su WhatsApp, non sapendo che WhatsApp degrada tantissimo il suono. Comprime, anche le foto, no? Mandate, quando dico ma inoltrami la foto, me la inoltri su WhatsApp, mandare la mail, esatto, sono d'accordo. Questa cosa purtroppo ha preso una piega, per cui a un certo punto secondo me arriveremo che tutto suonerà come se fosse stato mandato su WhatsApp e andrà bene così, no? Perché poi no. Anzi, sai che in realtà invece l'email non è del tutto morta. Anzi, io sono un grande sostenitore dell'email. Ecco, sai che è tornata in grande spolvero la newsletter. La newsletter mi piace. La newsletter per qualche anno penso di non essere mai stato iscritto, sì, forse involontariamente, ma mai averlo fatto volontariamente. Adesso allora è il momento di tornare a iscriversi. È il momento di farlo, tu dici. E do il bentornato a Radio Tube a Davide Allegranti. Ciao David. Ciao, buonasera. Che bello. Allora, vabbè, firma di un sacco di quotidiani, l'abbiamo letto sul Foglio, l'abbiamo letto sul Corriere di Firenze. Adesso però, David, tu ti sei inventato una cosa nuova, cioè una newsletter. Sì, nel senso è nuova per me, ci sono tante storie di successo che arrivano soprattutto dagli Stati Uniti, dove la newsletter in questo momento sta andando molto... bene, anche con delle innovazioni grazie a delle piattaforme come Substack, che ha creato e dato la possibilità ad alcuni giornalisti di mettersi in proprio, parlo soprattutto degli Stati Uniti, dove c'è un mercato, ci sono anche più persone, ci sono 600 milioni di persone che parlano inglese, quindi è più facile avere un mercato, certo, rispetto ad altre parti. E io, che sono sempre un redattore del mio quotidiano Il Foglio, però, e mi piace sempre sperimentare, inventarmi cose nuove, ho inventato questa newsletter che si chiama Il Machiavello, che va per l'appunto sempre su Substack, che ti permette di fare un sacco di cose. Oltre a mandare delle mail, crea anche una specie di blog a cui puoi accedere dall'indirizzo, per esempio in questo caso davidallegranti.substack.com, E però io, fondamentalmente, la cosa interessante è che mando delle mail. Perché? Perché nell'epoca dell'ipercomunicazione, dove appunto, come veniva detto prima, i suoni arrivano sotto varie forme, anche la scrittura arriva sotto varie forme, non sempre così eleganti, in tweet, Facebook, siamo inondati di anche chiacchiere, mi piaceva l'idea di rallentare questo momento e scrivere cose che ti arrivano nella fagella di posta, se vuoi leggerle, le leggi senza stare lì a vedere se uno ha visualizzato oppure no, ma se arriva la mattina magari te la leggi la sera, oppure non la leggi, dipende da cosa che ti arriva, e io spero che le cose che ti produco abbiano un qualche tipo di interesse, e secondo me è anche un modo per rallentare in questa epoca in cui siamo tutti presi da un sacco di cose, in cui ipernavighiamo su internet, su Twitter, su Facebook. Ecco, creare degli spazi che possono essere poi di approfondimento anche. Per esempio, in Italia faccio pubblicità a una newsletter che ha avuto molto successo, quella di Francesco Costa, certo, sugli Stati Uniti, ma penso per esempio a una newsletter che facciamo, che fa al Foglio la collega Giulia Pompili, che si chiama Catane, che affronta le tematiche del Giappone, della Cina, la geopolitica giapponese e cinese. Naturalmente questa cosa funziona molto sulle nicchie, secondo me. Cioè, nel senso, cioè praticamente permette... tu trovi il tuo argomento di interesse e hai, esatto, un giornalista di riferimento che ti dà degli spunti di riflessione. Però ti volevo, esatto, chiedere una cosa, David. Esiste anche un risvolto economico della newsletter, cioè io mi posso iscrivere delle newsletter gratuite, ma la newsletter può essere a pagamento. Io posso sostenere il giornalista che si occupa del tema che mi interessa nel modo che mi interessa, con una sottoscrizione mensile, annuale, quello che è, proprio come se fosse l'abbonamento di un giornale ad un giornale. Mi viene da dire che a questo punto il giornalista stesso è editore di se stesso. Sì, in alcuni casi, io cito sempre gli Stati Uniti perché su questo sono sempre all'avanguardia e permettono questa cosa che tu stai dicendo. Ci sono alcuni giornalisti che a un certo punto sono andati via dai giornali dove lavoravano e hanno dato vita a delle newsletter a pagamento che stanno andando, per esempio, molto bene. Penso ad Andrew Sullivan, che è stato uno dei primi blogger della storia, che a un certo punto ha dato vita a un blog che si autososteneva grazie ai finanziamenti, poi è tornato in un giornale, poi si è dimesso di nuovo, adesso ha fatto questa newsletter su Substack che puoi sottoscrivere. Ci sono altre storie, come quella di Casey Newton, che lavorava a The Verge e poi ha fatto anche lui una newsletter su Substack. Anche la mia c'ha una parte a pagamento, se uno si vuole abbonare può ricevere dei contenuti che chi non è abbonato non riceve, e ce ne sono anche altre. Insomma, io ho fatto alcuni esempi di storie famose. Recentemente ne ho scoperta una, un giornalista che si chiama David Sirota, che lavorava con Bernie Sanders, l'ha aperta verso aprile, ha fatto una prova, perché poi queste cose ti consentono appunto di sperimentare, di vedere, di verificare, di inventarti cose nuove, anche di agganciarci un podcast. Insomma, lui ha aperto questa sita, questa newsletter, sempre su Substack, prima gratuitamente, però ho visto, io l'ho seguito fin dall'inizio perché mi incuriosiva, volevo capire di più. Dopo un paio di mesi l'ha messa a pagamento, poi sono passate altre settimane ed è riuscito, per esempio, a ingaggiare un altro giornalista. Era un progetto che prima faceva da solo, poi è andato molto bene. Tra l'altro, se la seguite, secondo me è ganza, perché ha dato anche delle notizie, ha fatto uno scoop su Amazon, sui dipendenti di Amazon che erano risultati positivi purtroppo al coronavirus, e questa cosa nel suo caso è andata così bene che lui a un certo punto si è potuto permettere persino di ingaggiare un giornalista. E se lo seguite sui social, per esempio su Twitter, su Facebook, oppure guardando la sua newsletter, vedete che questo progetto sta crescendo, perché adesso è già diventata una testata, ha cambiato nome, non è più soltanto la newsletter di David Sirota, si chiama in un'altra maniera e sta diventando pian piano una specie di piccolo giornale. che ti arriva nella casella di posta e poi diventa anche altro. Insomma, mi sembra una storia interessante, perché questo fa parte anche del mondo in cui siamo calati. Il giornalismo vive sempre di costanti trasformazioni. Sì, dobbiamo anche capire come affrontare questi tempi. Davide, devo dire, sì. Abbiamo Davide esatto, con la E. Adesso, sì, adesso è difficile. Davide, però è imprescindibile anche qui la qualità, cioè è ovvio che tu... Io allora credo che innanzitutto ci sia un tema fondamentale, che è proprio quello dell'ordine delle cose, no? Cioè, se uno riceve delle mail, sa che sono contenute in quella in quella casella lì, sono ordinate. Non è Facebook che apri e ti propone delle cose in base a un algoritmo che decide lui, per cui non riesci neanche a seguire a creare un racconto che sia filologico. Tu hai già una fonte, no? Della quale ti fidi. Esatto, per cui tu io la trovo una soluzione davvero interessante. E poi è la logica del creator, no? Del fatto di avere un finanziamento per quello che fai, dei sostenitori, secondo me è una chiave decisamente avveniristica. Ecco. Faccio il tifo, faccio un po' di carosello, David, il Machiavello. Andate a trovare sui social di David Allegranti e tutti i link, che così vi abbonate alla newsletter. Grazie David per essere stato con noi, un abbraccio. Grazie a te, Marta, grazie. Ciao David. Buona serata. Viabilità, e poi saremo ancora insieme per l'ultimo spicchietto di RadioTube. RadioTube Social Network. Eccoci all'ultimo proprio spicchietto del nostro sabato pomeriggio in diretta, sempre col nostro co-conduttore d'eccezione di oggi, qui, che è Davide Ferrario. Eccoti ancora. Davide, dunque, per tutti i fan di Max Pezzali, visto che hai citato il concerto che stavate iniziando a mettere in piedi, adesso state aspettando... No, allora, in teoria il concerto è riprogrammato esattamente per le stesse due date che, appunto, non vorrei adesso sbagliarmi, ma mi sembra fossero il 10 e l'11 luglio del 2021. Allo stato attuale delle cose il concerto si fa, per cui... A meno che non... Ragazzi, qualsiasi gesto scaramantico possibile, insomma, dovremmo riuscire a portarla a casa. Accidenti, che anno assurdo, che hanno... Tu sai ancora suonare la chitarra? Te lo ricordi ancora come si fa? Guarda, io già la suono poco di base, devo dire. Perché dopo un anno devi ripassare le canzoni che non te le ricordi certo, più. Certo, Lo so. Infatti ci sarà un lungo pre-training. E devi ricordarti come si faceva a suonare. Ti faccio parlare ancora un pochino di musica con un brevissimo video, eccolo qua. Knock my chest, emptiness, sound of death in loneliness. Allora, questi sono i Melancolia, non so come si dica, uno dei gruppi che stanno partecipando a X Factor. Perché ti chiedo di X Factor? Ogni settimana c'è questa cosa, secondo me, molto intelligente e molto furba da parte di Sky. Giustamente lo fanno i video delle esibizioni, che poi ovviamente vengono pubblicati subito da tutti i quotidiani online, e tutto questo ha grande eco. Tu sei musicista da un bel po' di anni. Ahimè, sì. No, vabbè, ma sei un ragazzino, un bambino. Grazie, un bambino. Talent non hai fatto in tempo. Hai fatto Sanremo Giovani, no, ma non era un talent. Ho lavorato a The Voice. Tu hai fatto il coach. Il coach con Max. Con Max per The Voice. Però tu, a parte appunto Sanremo Giovani, non diremo come si chiamava il tuo gruppo, perché sennò poi tutti vanno a vedere per su YouTube. Non era proprio la tua canzone. Adesso questo ne discutiamo finita la diretta. Ecco. Non era proprio il tuo pezzo. Però no, poi hai fatto Sanremo con Pippo Baudo, più di certo, così. Certo, Pippo Baudo. Cioè, Baudo, guarda, e che non è una Unziker. Roba. Beh, non è una roba da poco che ti presenta Pippo Baudo a Sanremo. No, non puoi metterne il curriculum. Sì, sì. Cosa provi quando pensi a questi ragazzi che con questi video vengono sbattuti nelle prime pagine dei giornali online, vengono appunto diffusi subito sui social, hanno delle fiammate di popolarità improvvisa? poi non è detto, perché poi non è detto nemmeno, non è detto che il successo arrivi se vieni, se arrivi dopo le selezioni, non è detto che il successo arrivi nemmeno se lo vinci un talent, e non è detto che il successo poi rimanga manco se l'hai vinto il talent. Tu cosa provi quando vedi questi video, questi ragazzi così, tu con mi vuoi fiammate? Fare delle domande per farmi dire delle cose che non voglio molto farti cattive. Parlare male dei non voglio farti parlare male dei talent show, voglio chiederti okay. cosa provi quando vedi questi ragazzi. E sai, vedo due cose. La prima cosa che vedo è che sicuramente quello è, e me ne rendo conto, uno dei pochissimi canali che queste giovani generazioni hanno a disposizione per farsi sentire, perché poi non, cioè, tolto quello rimane. Cioè, uno come te si è fatto sentire perché è stato scoperto da Battiato. Sì, in certo. Piccolo dettaglio. Sì, non esisteva null'altro se non il caso e il suonare nel localino come nei film, no? Adesso chiaramente questo canale dei talent rappresenta un'alternativa di qualche tipo. Ho delle serie perplessità sul fatto che sia poi effettivamente utile. Io conosco un sacco di gente che ha fatto i talent, che ha anche vinto, e che però di fatto poi non riesce a sostentarsi. Per cui in realtà credo ancora romanticamente nell'autocostruzione della propria carriera, no? Sai perché sorrido? Perché questa intanto è una grande scorciatoia, cioè il talent è una scorciatoia innegabile, ma io credo in una cosa, che più velocemente vai su, più velocemente vai giù. Poi magari non è vero sempre, però devo dire che la storia non mi ha quasi mai dato torto. No, sorrido perché altre 49238666 arrivano anche delle richieste per te, come possono mandarti dei link con dei demo. Cioè, è molto facile, c'è una mail nel mio sito. Ok. Il sito che è davideferrario.com. Io ho ancora il sito, che è una roba forse veramente desueta. Ci sono ancora dire. I coniglietti nel tuo sito? No, adesso no, c'è solo del testo scritto. Ah. Non è una cosa molto semplice. Esiste una mail a cui si può scrivere, ma vanno bene anche i social, va bene qualsiasi canale di contatto. Io tengo monitorato tutto costantemente. L'ascoltatore che dice grazie, vabbè, io a domanda rispondo, certo. Insomma, voglio dire, anche perché appunto Davide Ferrario, musicista di giovanissimo ma di lungo corso e di grande esperienza, mi dice Alessandro Schirano 9-10 luglio, quindi devi 9-10, vedi, ho sbagliato devi di segnare un giorno, in agenda un giorno. No, ma davvero. Credo di averli anche segnati, solo che non ho controllato adesso. Beh, la mia memoria purtroppo è credo inizia che un po', insomma, a cedere. Dai, speriamo davvero che si possa ricominciare a fare tutto come prima, quei concerti. Io già avevo ripassato tutto per cantare, le sapevo tutte, e adesso, cioè, non è che non... Guarda, ti posso dire che le avresti sapute tutte anche senza ripassare. Sì, perché sì, con sì, Pezzali sì, andiamo sì, abbastanza sì, sul sì, guarda, sicuro. Già mi era successo con il concerto, grazie al quale ti ho conosciuto, perché ti ho visto sul palco, Pezzali, Renga, sì. Neck, perché tu eri appunto chitarrista anche di quella... quindi già sapevo quelle, figuriamoci, vedi Max Pezzali, le posso cantare anche al contrario, esatto. Comunque le so tutte. Allora, devo ringraziare Davide Ferrario. Ma grazie a te, andate su tutte le piattaforme delle robe di musica, quelle che usate, perché quasi dappertutto trovate l'ultimo EP. Sì, si spera dappertutto, più che quasi dappertutto, nel senso adesso dovrebbe essere un po' ci mette sempre qualche giorno, però prima o poi arriva. È uscito oggi, quindi andate oggi, a cercare l'ultimo non avendo grandi strutture dietro ci dobbiamo un po' così. End of an era, quindi certo. La fine di un'era, ma che prelude sempre inizio di una nuova era, grazie a Davide Ferrario. Certo. Grazie a te Marta, spero di vederti presto. Dai, speriamo presto, grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a Alessandro Schirano in redazione, noi ci troviamo il prossimo sabato. Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.